Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Il menu di oggi ci parla del valore politico della lingua e di Desperado, un libro illustrato per bambini vincitore dell'importante premio Andersen come miglior volume dai 0 ai 6 anni del 2020. Cominciamo allora tornando ancora su Gianni Rodari, letto nella prospettiva dello scrittore Paolo Di Paolo, premio Viareggio per la letteratura con Lontano dagli occhi, ma anche autore di libri per ragazzi come La mucca volante, Giacomo il signor bambino, e anche un adattamento della Divina Commedia. Ricordiamo anche che dal gennaio 2020 conduce la trasmissione radio settimanale La Lingua Batte su Radio 3 Rai. Di Paolo, colto nel suo intervento nel dibattito organizzato dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna in collaborazione con Arci Bologna ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, ragiona nel suo intervento sul potere della parola e pone una differenza sostanziale tra il lettore e il leggente. Dopo lo stacco musicale sentiamo qualche stralcio proprio tratto da questo suo intervento. C'è una storiella che è diventata quasi proverbiale, un pesce anziano e due pesci giovani che si incontrano appunto in un acquario e a un certo punto il pesce vecchio passando chiede ai pesci giovani com'è l'acqua e loro rispondono e che cavolo è l'acqua? Allora questo piccolo apologo per ragionare sul valore della consapevolezza in generale, nell'esistenza, non soltanto rispetto alla lingua. Cioè a dire, se io sto nell'acqua e non so che cosa è l'acqua, c'è un problema evidentemente, no? A cominciare dalla mia capacità di gestire il rapporto appunto poi fondativo della nostra coscienza, che è un rapporto sostanzialmente tra lessico e sintassi. Se io articolo quel rapporto, lo sviluppo, lo approfondisco nella mia esistenza, naturalmente guadagno consapevolezza e dunque sarò nell'acqua, saprò dire com'è l'acqua ricordandomi appunto che cosa è. Chiaro che nel momento in cui insistiamo sulla capacità di Rodari di lavorare sulle parole, di renderle in qualche modo visibili, cioè uno dei tratti che mi sembrano ancora abbastanza efficaci di Rodari, che pure è uno scrittore, questo bisogna dirlo secondo me anche per non esagerare poi in una certa enfasi, è uno scrittore che rimanda comunque a un'Italia abbastanza lontana dalla nostra. È evidente che quell'ombra, o se volete anche semplicemente quella polvere, pure scintillante, di una certa provincia italiana, di un certo modo di raccontare l'Italia, si avverte nei libri di Rodari. Quanto sia efficace oggi Rodari a scuola? È molto, molto ancora diffuso, questo lo posso garantire e testimoniare, ma senz'altro, diciamo, l'asse del racconto per ragazzi, che è per bambini e per ragazzi, è molto spostato anche in Italia rispetto alle direttrici rodariane, che tra l'altro restano inaggirabili, quindi questo potrebbe essere un paradosso. È difficile scrivere in Italia per bambini e per ragazzi senza passare da Rodari, ma oggi l'asse dominante è un altro, è spostato su un altro tipo di racconto, probabilmente anche più strutturato narrativamente di quanto non fosse il racconto in Rodari. Però quella efficacia resta assolutamente inscalfibile, cioè la sua capacità di rendere visibili le parole. Quando dico visibili intendo dire che le caratterizza al punto da renderle personaggi, e sono pochi gli scrittori, almeno a mia memoria, che sono riusciti a rendere personaggi le parole o addirittura le lettere dell'alfabeto o appunto l'interpunzione, il punto a capo o il punto e basta, ma anche, non so, un personaggio che ho sempre trovato bellissimo dei racconti di Rodari, che è un H, che non valeva un H effettivamente, no? E poi si accorge del suo valore quando si ricorda che Occiali non significa niente se non c'è un H di mezzo che li rende occhiali. Ma in generale lui aveva la capacità di dare alle parole anche una sorta di ingombro fisico, come se riuscisse a intravedere nella neutralità delle parole, delle lettere dell'alfabeto, una componente non solo caratteriale ma addirittura di stazza. Le parole possono essere lunghe, possono essere magre, possono essere corte, possono essere ovviamente grasse, e in qualche modo il fatto che queste parole suonino determina pure appunto una componente caratteriale, che facciano rumore come fosse un'orchestra. Questo elemento qui, se mi sembra l'aspetto centrale della, non tanto della poetica di Rodari, è chiaro che questo sarebbe ingenuo se lo dicessi, ma della sua potenziale efficacia tutt'oggi. cioè la possibilità attraverso uno scrittore come Rodari di far vedere le parole. D'altra parte, altrimenti il nostro rapporto con le parole, che comincia comunque con grande fatica, sarebbe appunto un rapporto tutto sommato grigio e funzionale. È vero che nella scuola primaria la componente ludica, per fortuna, viene salvaguardata già nei primi passi di apprendistato rispetto all'alfabeto, rispetto alle prime parole, però uno, se incontri uno scrittore così, accade che queste parole comincino a interagire con te mentre tu interagisci con loro, perché effettivamente hanno questa capacità di reazione, di sentimento addirittura, mi verrebbe da dire, se non fosse un po' eccentrica come prospettiva. Tanto più effettivamente che questo punto, no, il vedere le parole, diventa essenziale quando comincio a entrare da bambino nel rapporto con le parole, e quel rapporto è molto faticoso. Ho un minuscolo aneddoto che però mi è sembrato illuminante, perché ne sono stato vittima in qualche modo, di quando in un'occasione pubblica, parlo di diversi anni fa, avevo accanto Tullio De Mauro, che è stato uno dei più importanti studiosi della lingua e non solo, un vero e proprio studioso politico della lingua in senso pieno, o un uomo politico prestato, diciamo, agli studi linguistici, che sarebbe la stessa cosa. Ma in una mia invece così intemerata, un po' retorica, come spesso fanno gli scrittori, sul valore della lettura, sull'importanza del leggere, no, facevo delle considerazioni tutto sommato molto astratte e molto generiche. E De Mauro mi ha fulminato a un certo punto, perché diceva: tu allora stai dicendo che leggere sia facile. E invece hai mai guardato da vicino un bambino che comincia a leggere? Quanta fatica fa? E se quella fatica è accentuata anche da una specifica fatica personale, da un problema in più, chiamiamolo così, beh, quella fatica può diventare insormontabile. Se prescindiamo, diceva lui, da questa fatica, se non riusciamo a ricordarcela sempre quanto sia faticoso questo gesto innaturale che è leggere e scrivere, perché non è un gesto che attiene, diciamo così, al mondo animale, se non per quel segmento che chiamiamo umano. In realtà, se c'è uno scrittore, ancora una volta, che ha tentato di disinnescare una retorica sul leggere come balsamico, come benefico, come facile e come decisivo in quanto tale, è stato Rodari. Rispetto non solo all'incentivo che ha dato in Italia alla riflessione pubblica sullo scrivere per ragazzi, Rodari, secondo me, non solo secondo me, anche rispetto a studi recenti, si può dire che Rodari abbia molto sofferto. In realtà non è tanto il posto che gli assegniamo noi, quanto il posto che si aspettava lui, ma non tanto da morto, perché poi da morto effettivamente può essere poco rilevante, ma da vivo. Cioè, la sua polemica costante con l'editore principale dei suoi libri, Einaudi, è stata proprio una polemica in questo senso, come se non gli si riconoscesse fino in fondo, nonostante un successo enorme che ha avuto. Da un punto di vista di vendite è stato uno scrittore stravenduto, con alti e bassi, ma alcuni libri sono stati veramente dei veri e propri long seller. Quello che rimproverava anche a Calvino, addirittura a Calvino, era di non capire fino in fondo quanto quel suo lavoro potesse entrare in collane storiche della casa editrice, che non erano necessariamente collane liminari, marginali, o comunque, se non marginali, diciamo orientate a un pubblico leggermente diverso. Cioè, perché non poteva stare in fondo un suo libro nei Coralli, adesso, per entrare proprio nella politica editoriale spiccia? Sta fermo. Sta zitto. Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto. Guarda dove metti i piedi. Sta attento a non rovesciare l'acqua. E non lasciare cadere la penna. E non perdere i pastelli. Non giocare in cortile. Non correre sulle scale. Non fischiare. Non sbattere le porte. Non strusciare le scarpe. Non prendere calci e sassi. Sta buono, perché la mamma è il mal di testa, perché la maestra è il mal di testa, perché la zia è il mal di testa, perché la portiera è il mal di testa. Cambiato, compitissimo, prudente, ossequioso, diligente. Rodari, quando comunque ha riconosciuto anche in fondo un suo limite, credo che abbia molto combattuto con questo, anche con la tentazione minima di scrivere qualcosa che non fosse per bambini, apertamente per bambini o percepita come libro per bambini. Beh, quando ha risolto almeno internamente questo problema, sicuramente ha cominciato in modo più sistematico a ragionare anche pubblicamente sul valore dell'editoria per l'infanzia e per ragazzi, provando però a spolverarla, appunto, davvero, lì si toglieva polvere rispetto al parametro standard con cui si introduce alla lettura un bambino, cioè gli si dice: questo è un libro, questo libro ha un valore. E anche se io non fossi come genitore o come educatore davvero convinto, perché questa secondo me è la provocazione più intelligente, quanti di noi che comunque contrabbandano di piacere, il supposto piacere della lettura, poi saprebbero ancora riconoscerlo davvero, quel piacere? Questo aprirebbe una discussione enorme su come abbiamo impostato male in questi anni le campagne di promozione della lettura. Pensate anche a quella più diffusa. Io leggo perché. Voglio dire, io leggo perché è sbagliata. È sbagliata da un punto di vista proprio semantico. È sbagliata perché tu dici io leggo perché e presupponi che da questo discendano una serie di ragioni inoppugnabili, molto personali, ma inoppugnabili, già portatrici di un valore in sé. Io leggo perché, poi potete proseguire come volete naturalmente, no? Ma io istituisco un valore. Se io invece dicessi io leggo cosa, partirei da un'esperienza. E allora a quel punto qualunque libro è un'esperienza prima che un valore, come altre milioni di esperienze che si possono fare nel mondo. In realtà il bambino si consegna il libro e il valore insieme. E non è che sia questo colpevole, voglio dire, è anche un po' legittimo, non so come dire, e perfino nobile da un certo punto di vista. Rodari, secondo me, ha provato a fare questo. Quando dice che voleva essere solo uno che accendeva un fuoco o un compagno di giochi, in questo senso non si stava sminuendo, stava provando a disinnescare certi meccanismi retorici intorno a leggere, ricordandosi sempre di quella fatica e poi ricordandosi di quel tutto a tutti, tutti gli usi della parola e della lingua a tutti, cioè a dire: non sto formando nuovi lettori letterati. Sto cercando di fornire una cassetta degli attrezzi, in modo giocoso, attraverso questi libri, a dei cittadini del futuro. Quando io perdo di vista questo punto, cioè quando io perdo di vista il fatto che non è che a scuola leggo libri perché devo diventare un lettore, lettore in corsivo, non so come dire, ma devo diventare un individuo leggente, potrebbe essere questa una piccola divaricazione, no? È chiaro che il lettore è una parola più bella, che leggente come scrittore è più bello che scrivente, ma è più importante essere scriventi e leggenti che lettori e scrittori, non so come dire. Cioè, dove quindi in qualche modo si recupera l'assoluta, indiscutibile funzione basica del leggere e dello scrivere, in quanto appunto dentro al mondo, dentro questo groviglio di segni, se io non so leggere e non so scrivere, non mi oriento e naturalmente rischio di diventare subalterno. In quel senso si richiamava spesso, si appellava spesso al tema della schiavitù e della libertà, perché solo nel momento in cui ai blocchi di partenza della vita do gli stessi strumenti a tutti, che posso presupporre, non che si arrivi con le stesse, con gli stessi vantaggi, con le stesse competenze, con la stessa forza ai blocchi di traguardo, ma che si parta comunque, si cammini e si corra almeno con una indiscutibile cassetta comune, che è fatta appunto di parole. È nella somma delle prospettive che Rodari adopera, anche quelle che più si leggono in filigrana nel suo lavoro, e cioè c'è dentro il maestro controvoglia, perché era stato un maestro controvoglia, e se tu sei un maestro controvoglia, sai anche che si è alunni controvoglia il più delle volte, che si è alunni costretti a essere alunni, come lui si era sentito un po' costretto a essere maestro. C'è il giornalista, cioè uno ricattato letteralmente, come sono i giornalisti, dall'attualità, e quindi non indifferente all'aria del tempo, come certi scrittori si vorrebbero in qualche modo. C'è l'utopista, che diventa comunista, che resiste anche in questa utopia comunista, ma che a un certo punto la addomestica, come è stato necessario fare anche col surrealismo, in fondo. Mi è venuta questa espressione che surrealismo addomesticato, perché non è il surrealismo di Breton e Valéry, è un surrealismo più a portata di mano e di scuola, dove effettivamente il meccanismo della combinazione, delle parole buttate dentro un campo per vedere come reagiscono, della rottura della sequenza logica di una frase, tutto questo naturalmente sta dentro una componente, non di letteratura che si vuole alta come gioco sofisticato, ma come gioco molto basico, come il gioco delle biglie, come qualcosa per cui tu ti metti lì monologando come un bambino che sta imparando col suo orecchio e con la sua bocca a gestire i suoni, ti metti lì a giocare e poi a un certo punto queste parole, ecco, questi oggetti diventano, o questi suoni diventano visibili, li riesco a vedere, cioè a staccarli da me. E allora, se tu sommi il maestro controvoglia, l'utopista, il giornalista e aggiungi lo scrittore, lì naturalmente viene fuori uno che non poteva che essere intensamente politico. E l'ultimissima suggestione che mi veniva in mente è legata al fatto che, tornando a De Mauro, il valore fondativo di una coscienza democratica sta necessariamente nella parola. Anche questo potrebbe essere un po' retorico, detta così. Però quando poi arrivano le statistiche, non tanto sul fatto che siamo lettori deboli, ma che siamo leggenti ancora più deboli. Io ripeto, ribadisco questa distinzione. A me, come scrittore, come persona che pubblica, potrebbe anche starmi a cuore, e dovrebbe, e mi sta a cuore, il fatto che gli italiani leggano o non leggano romanzi. Ma qua voglio essere molto chiaro. Se io mi limitassi a pensare, come fanno molti scrittori purtroppo, che leggere sia leggere romanzi, starei fuori dalla realtà. Perché per me, addirittura scrivendo romanzi, è più importante che uno possa avere un rapporto nella sua formazione permanente, che dovrebbe essere la formazione di un adulto, una formazione permanente, con la scrittura saggistica, con la scrittura informativa. Poi può arrivare un romanzo. In realtà noi invertiamo sempre il piano, perché supponiamo che dopo aver fatto l'abitudine a una componente narrativa messa dentro al gioco, che c'è sempre, che quindi diventa il primo libro che tu incontri, sono libri ludici in qualche modo, che mantengono quella fisionomia, poi dopo viene naturale diventare lettori di romanzi. Ma non è così. E se io perdo un lettore di romanzi, sarà un problema per uno scrittore, ma se perdo un lettore, un leggente, quello è un problema della cittadinanza. Quindi il dato più preoccupante non è tanto che gli italiani comprano pochi libri o leggono pochi libri, è sempre un po' storta così questa definizione, un po' sghemba. Il problema è quando arriva il dato che ti dice che un italiano su tre non riesce a cogliere il significato di testi di media complessità. E media complessità significa che non riesce a capire un editoriale su un quotidiano, sempre che uno abbia voglia di leggere un quotidiano, ma per dire come parametro linguistico, quello di capire che cosa dice un editorialista su un quotidiano. Quello è un testo di media complessità, secondo gli editorialisti, ovviamente, per standardizzare. E allora questo punto qui, cioè quell'italiano su tre che non riesce a cogliere un testo di media complessità, appunto, probabilmente non è consapevole fino in fondo della sua subalternità nei termini in cui la istituiva Rodari. E questo mi deve preoccupare come cittadino. Persone male informate o più bugiarde del diavolo dicono che tu sei nato sotto una foglia di cavolo. Persone male informate o più bugiarde del diavolo dicono che sono nato sotto una foglia di cavolo. Altri maligni invece sostengono senza vergogna. Sei venuto al mondo a bordo di una cicogna. Se mamma ti ha comperato come taluni pretendono, dimmi dov'è il negozio dove i bambini si vendono. Se mamma ti ha comperato come taluni pretendono, diteci dov'è il negozio dove i bambini si vendono. Tali notizie sono prive di fondamento, ti ha fatto la tua mamma e devi essere contento. La seconda parte della trasmissione parla del prestigioso premio Andersen, quello di ieri, coi premi a Gianni Rodari ed Alberto Manzi, ma anche quello di oggi, assegnato al libro illustrato per bambini dai 0 ai 6 anni, Desperado, l'autore è Oleg Konneke. Ne hanno parlato Maga Rossina e Maga Zebrina dell'associazione Iucali con la traduttrice per l'Italia Chiara Belliti. Ascoltiamo l'intervista. E con noi al telefono la traduttrice di Desperado, è il nostro libro di oggi della casa editrice Beisler, Chiara Belliti. Desperado ha vinto il prestigiosissimo premio Andersen come miglior libro 0-6 anni. Cosa rende questo libro speciale dal suo punto di vista? E come Ole Konneke, spero di pronunciare giusto il nome, cambia questo linguaggio del libro per l'infanzia? Ma intanto Desperado, questo dopo Covid è stato chiamato il tempo della gentilezza, e credo che con me che Desperado lo interpretino alla perfezione. È una storia di questo bambino che vive nel western, quindi anche un po' cowboy, genitori hanno una fattoria, che salva la sua maestra da una banda di cattivi. Quello che è interessante è che appunto è un libro gentile. Il bambino non è un eroe, né si crede un eroe, ma fa quello che ritiene che sia la cosa giusta, con una naturalezza quasi disarmante. Allora, in un tempo dove ci sono i cattivi, dove gli eroi fioccano, ogni giorno a noi ci dicono che ci sono degli eroi, questo bambino, ma semplicemente perché facciamo gesti che sono quotidiani e che dovremmo fare in quanto umani che appartengono a una comunità. Ecco, il nostro protagonista, un po' cowboy e un po' bambino, lo fa con una naturalezza infinita e poi torna a casa la sera come se nulla fosse, perché è davvero come se nulla fosse, no? Se tu sei gentile. E credo che con me, che è con questo, rispetto anche molto l'autore, che io amo moltissimo, che traduco con grande passione, che ho avuto la fortuna di conoscere, è una persona molto gentile. E poi la cosa che mi piace di lui tantissimo, a parte il tratto dei suoi disegni, delle sue storie quasi minimaliste, perché più per piccole le chiamerei proprio minimaliste, ha un approccio all'infanzia sano, cioè non vuole interpretarla, ci entra dentro con una chiave magica che solo alcuni scrittori per ragazzi hanno, secondo me, faccio questo mestiere da tanti anni, ma uno così veramente è raro. Il testo ovviamente è semplice, dovendo essere adatto al pubblico di 3-6 anni. Come si scelgono le parole in traduzione per essere comprensibili ma non sciatti o banali? Ha fatto una domanda bellissima e la ringrazio. In realtà io ho sempre tradotto fino a un certo punto della vita grandi autori di narrativa per adulti o anche per ragazzi, ma libroni. Però mi sono innamorata di questi piccoli libri che sono enormi e sono difficilissimi da tradurre, perché tu devi trovare, ecco, lo sa che cos'è che mi, almeno personalmente, che mi aiuta? La musica. Appena lo leggo devo sentire tutti i libri hanno una musica, ma con Neke è nelle mie corde, quindi posso essere una brava direttrice d'orchestra, mentre con altri magari meravigliosi io non riesco. A questa grande capacità di creare una musica che è universale. Difficilissimo trovare le parole, ma grazie alla musica riesco a trovarle. E poi non è vero che i libri per piccoli devono essere scritti con un linguaggio bambino. Io a questa cosa qui non credo. Io penso che i bambini, anche attraverso le immagini in questo caso, comprendono perfettamente tutto, e poi se devono imparare è bene che imparino, no? Anche su qualcosa di più complesso. Certo. Ecco, ci sono poi intere generazioni che sono cresciute con i fumetti dei cowboy, che giocavano ai cowboy, ma nei bambini di oggi c'è ancora questo immaginario del vecchio West, o è un ritorno proposto dagli adulti anche per portarli un secondo fuori dagli smartphone, TV on demand, verso un orizzonte di cavalli, fatica, lunghe distanze, distese desertiche? Ma anche questa è una bellissima domanda. Io scegliendo insieme a Ulrike questo libro, ero convintissima, che sono convinta che il western esista ancora, che è l'avventura, è un'avventura straordinaria dove tu ti addentri, anche pedagogicamente fantastica, tu ti addentri in questi territori sconfinati che sono di nessuno e dove tu devi ricavarti il tuo ranch, che è il tuo spazio nel mondo poi alla fine, no? Dove ci sono poi i cattivi, che non sono mai gli indiani nei libri per piccoli, per fortuna, sì. Non mai, anzi l'indiano in genere è quello che poi ti sostiene, tu ci diventi fratello, e questa cosa mi piace molto, ma anche molti film americani d'epoca poi l'indiano è buono. No? Sì. Con una logica americana un po' distorta, visto che l'hanno tranciati un po' tutti, però va bene. Io sono cresciuta con zio Zeb, che era amico degli indiani. appunto, idem io. Però c'è l'avventura, e la cosa straordinaria rispetto a un passato dove il western era di proprietà del maschio, sono le ragazzine, le femmine, perché c'è il cavallo. Mm. E tu in sella quel cavallo vai veramente a scoprire il mondo. È un po' come un cuore di tenebra, è molto corradiano, e anche il libro di Onèche è corradiano. Le chiederei se sa rispondermi da quello che osserva in casa editrice: com'è stata la ripresa post lockdown, non solo per quanto riguarda le vendite dei libri, ma proprio con del rapporto con il pubblico, delle presentazioni, degli incontri con i bambini? Ma incontri con i bambini sono stati, diciamo, negati, ma per forza di cose. Presentazioni, quelle che hanno fatto anche tutti gli altri libri, in cui io credo poco, francamente, che è quello del video, ma io appartengo a una generazione diversa. Però la casa editrice ha reagito con una grandissima creatività, perché in tempo di Covid, quando tu stai a casa a spignattare, a guardare la televisione e sogni anche un po', a Ulrike è venuta in mente. Ulrike si è sposata, ha fatto un matrimonio che non è il suo già precedente, che va benissimo, ma ne ha fatto un altro, quello fra la carta stampata e l'audiolibro. Ah. È un'idea geniale, che sembra un uovo di Colombo. Ripeto, io dico sempre, appartengo a una generazione, ma quella dove c'è sempre stata la grande lotta carta stampata, audiolibro, vince la carta, muore la carta. Beh, da ora in poi, acquistando un libro Beisler, quindi la carta con le storie bellissime Beisler, con un cellulare o con un iPad, che hanno tutti ormai, tu scarichi un'app che è tua e soltanto tua, e puoi ascoltare il libro letto. È geniale, allo stesso prezzo e con lo stesso oggetto, il libro. Ora, la cosa interessante è che uno pensa: ah, è fatto per i lettori riluttanti, ah, è fatto per i pigri, è fatto per quelli che non vedono. Ma no, è fatto per tutti, è fatto per le famiglie, è fatto per chi ha un fratello più piccolo e uno più grande, che possono uno ascoltare e uno leggere, è fatto per quando si va in famiglia, no? I famosi viaggi, speriamo di poterli rifare, mare e montagna, è fatto perché magari io la sera ho già letto il libro e, come nelle fiabe sonore, ho voglia anche di ascoltare, in questo caso non il disco, ma la storia letta, scaricandomi una banale app, che per me rimane ancora un mistero, ma io non sono tecnologica, ecco, quindi devono farlo per me, ma i ragazzini ci mettono un secondo. Ecco, infatti le volevo chiedere cosa cambierà, cosa vede all'orizzonte in questo anno di semilibertà, fatto di mascherine e distanze, nella fruizione delle librerie, dei libri. Si andrà sempre verso l'online, oppure c'è voglia anche di trovare la condivisione, gli incontri? No, c'è una voglia di comunità incredibile in un paese, in un mondo che al di là del Covid la stava perdendo, forse l'ha anche perduta. Questo vale nei rapporti privati, no? Nei rapporti d'amore, nei rapporti d'amicizia. Veramente ci sono delle comunità che sono dissolte. Invece la cosa bellissima è che questo orribile virus ha portato di nuovo alla voglia di rincontrarsi, di toccarsi. Se lei ci pensa, non ci si può più toccare. Sì. Io faccio una fatica incredibile, perché sono una da abbraccio, e quindi quando vedo che mi fanno tutti i gesti, la mano sul cuore, tutta sta mica, io soffro. Poi, insomma, la mia età, se volessi trovare un fidanzato, come faccio? È un problema gravissimo. Sì. Ci sono tutte anche i ragazzi, i bambini, che dicono tutti pericolosissimo perché si toccano. Ma come fai a impedirglielo, a evitarlo? Guardi che è una cosa grossa. E credo che, al solito, la carta stampata, in questo caso anche Legge Ascolta Basler, appunto scaricando l'app che si chiama così, sia di conforto enorme. Ci si tuffa nella lettura, si torna a oziare. Ah, l'ozio è una meraviglia, è una filosofia, è un'arte, bisognerebbe insegnarla a scuola, dappertutto. E poi praticarla anche noi adulti. Sì, l'ozio è un salvavita straordinario. E quindi io, l'orrendo Covid almeno ha portato a rivalutare l'ozio. Che noia, il pensiero mi annoia, passo le mie notti sulle poesie di Saba mentre ascolto dei preludi di Chopin.